i lacci del credente. Una delle più belle promesse fatte da Gesù a coloro che avevano creduto in lui è la libertà. Egli disse: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi», Giovanni 8,36. Per la libertà, le nazioni combattono fino alla morte. Per la libertà lo schiavo offrirebbe qualsiasi cosa. Colui che ha posto fede in Gesù realizza che è stato liberato non tanto da una certa schiavitù sociale, ma dalla schiavitù del peccato. Pochi hanno compreso quanto il peccato limiti o renda schiavo una persona. Eppure, milioni di persone vorrebbero liberarsi da vizi o inclinazioni e non ne sono capaci. Danno la colpa alla loro incapacità di essere affrancati, alla loro debolezza o ad altro, ma non si rendono conto di trovarsi sotto la tirannia del peccato, cioè un comportamento contrario al volere di Dio. Anche se è vero che un figlio di Dio mediante la nuova nascita è stato liberato dalla schiavitù del peccato, purtroppo a volte si ritrova ad essere schiavo di cose che egli non vorrebbe. Questo succede perché egli è stato liberato sì dalla potenza del peccato, ma non dalla sua presenza che lo accompagnerà fino alla morte. Dato che non sono pochi i figli di Dio che possono correre verso il premio promesso perché sono legati dai lacci, è utile considerare alla luce della parola di Dio i possibili lacci del credente per poterli evitare. Leggiamo nel libro del Deuteronomio: «Quando l'Eterno, il tuo Dio, avrà sterminato davanti a te le nazioni che tu stai per andare a spodestare, e quando le avrai spodestate e dimorerai nel loro paese, guardati bene dal cadere nel laccio, seguendo il loro esempio, dopo che sono state distrutte davanti a te, e dall'informarti dei loro dei, dicendo: come servivano queste nazioni i loro dei, farò anch'io così». 12:29-30. Nessuno di noi è immune di ciò che lo circonda, che vogliamo o no. Uno dei più grandi istinti è la necessità di uniformarci alla massa, è quello di essere approvati. Essere scartati dalla società è forse una delle esperienze più dolorose e che tutti cerchiamo di evitare, costi quello che costi. Testimoniavo del Vangelo ad una persona che diceva di non credere in niente, che rifiutava ogni aspetto religioso. Ma quando gli ho chiesto se si fosse sposato secondo il rito cattolico e se avesse battezzato suo figlio, mi rispose affermativamente. Alla mia richiesta delle motivazioni che lo spingevano all'osservanza di questi gesti religiosi, nonostante il suo rifiuto verso il soprannaturale, egli rispose perché lo facevano tutti. Vi sono persone che affermano di aver creduto in Gesù quale Salvatore e Signore, ma non hanno il coraggio di abbandonare pratiche religiose contrarie al volere di Dio. La trappola di seguire l'esempio degli altri per essere approvati è sempre presente. Il fuorilegge che sfugge alla regola della società, il filosofo che si solleva con i suoi pensieri al di sopra del livello normale, sembrano essere sfuggiti al laccio, ma in realtà hanno ristretto la cerchia di persone alle quali desiderano piacere. Il fuorilegge ha i suoi complici davanti ai quali desidera brillare, il filosofo ha la sua piccola corte di pensatori superiori la cui approvazione gli è necessaria per poter essere felice. Chi non tiene gli occhi fissi su Gesù Cristo per piacergli cade nella trappola di piacere agli uomini e di comportarsi come si comportano gli altri. Il salmista disse: «Chi ho io in cielo fuori di te?». Questo atteggiamento è il solo utile a farci evitare il laccio di seguire l'esempio degli altri e anche quello di aver paura degli uomini. Nel libro dei Proverbi sta scritto: «La paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro». Proverbi 29:25. La paura paralizza, impedisce di essere se stessi, si trasforma in una trappola e a volte anche mortale, ma con il timore di Dio si soffoca la paura di essere diversi. Quando si ha la certezza di essere amati da Dio, di essere approvati da Lui, sapendo che la sua approvazione non dipende dalle nostre opere, ma dalla grazia del sangue di Cristo, solo allora ogni altro sentimento negativo si trova in secondo piano. È un'utopia pensare che un figlio di Dio non provi mai paura, smarrimento, angoscia. Anche Gesù nel Getsemani, la sera in cui fu tradito, provò tristezza e grande angoscia, ma quando il desiderio di compiere la volontà di Dio è al di sopra di tutto, allora compiremo il volere di Dio anche in mezzo ad una tempesta di sentimenti negativi. E forse è impossibile eliminare i nostri sentimenti perché non sono al servizio della nostra razionalità, sicché il credente deve guardarsi anche dalle minacce che producono un certo disagio. Il laccio da quale deve guardarsi non è tanto la paura che incutono gli uomini, ma lasciare che questa paura prenda il sopravvento. Proprio perché è cosciente della nostra fragilità, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna». Matteo 10:28. Con questo ordine Gesù non si riferiva al diavolo come alcuni pensano, ma egli ordinava ai discepoli di temere Dio. Quando un re non si può vincere, è saggio mettersi dalla parte di uno più forte. L'amore per il denaro è un altro laccio molto insidioso per il credente e a volte può fermare per sempre la sua corsa verso il premio. In merito, l'apostolo Paolo si è espresso in questo modo: «Ora, la pietà è un mezzo di grande guadagno, quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo, infatti, portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. 1 Timoteo 6:6-10. Dobbiamo subito chiarire che l'amore per il denaro non è necessariamente solo per chi nella vita cerca grandi ricchezze, anche perché, a dire il vero, non sono molti, ma esso consiste anche nel non accontentarsi del proprio stato sociale o di ciò che si possiede. Proprio perché l'amore per il denaro non è sempre così appariscente, molti figli di Dio ne sono succubi. Quando Gesù raccontò la parabola del seminatore, disse che il frutto che avrebbe dovuto portare la parola di Dio nel cuore di un uomo veniva soffocato dalle sollecitudini di questo mondo e dall'inganno delle ricchezze. Molti di coloro che leggono o ascoltano queste parole non si rispecchiano in quello che Gesù dice. Eppure, ogni volta che diamo precedenza alle situazioni della vita, situazioni vantaggiose, proficue, a discapito dell'ubbidienza alla parola di Dio, noi stiamo amando il denaro, stiamo servendo Mammona e non Dio. Quando si desidera e si cerca più del necessario, quando si vuole essere al passo del benessere che il mondo propone per non sentirsi inferiori e realizzati, allora si sta amando il denaro. Un simile atteggiamento verso la vita è un laccio per il credente, un laccio che gli impedisce di essere libero di dedicare tempo e denaro per il regno di Dio. Gli apostoli decisero di incaricare dei diaconi a svolgere certi lavori pratici per non trascurare la predicazione e la preghiera. Siamo noi in grado di lasciare o demandare ad altri certi lavori per consacrarci nell'opera di Dio? Essere troppo impegnati nelle sollecitudini della vita non è sempre sinonimo di spiritualità. Vi è ancora un altro laccio che di certo blocca il cammino di un figlio di Dio, e cioè l'orgoglio. Riferendosi a dei conduttori, l'apostolo Paolo, nel dare delle disposizioni per la loro idoneità al servizio, ordina che non siano convertiti da poco affinché non si gonfino di orgoglio e non cadano nella condanna del diavolo e che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. 1 Timoteo 3:1 a 7. L'orgoglio è un laccio, Salmo 59:12. E forse il laccio per eccellenza, ma essendo come certi veleni in odore e in colore, lo si può trascinare per tutta la vita. Se è difficile individuare il peccato dell'orgoglio nell'ambito della quotidianità della vita, lo è ancora di più nel campo religioso. Mentre quando una persona è orgogliosa o si vanta di certe sue qualità o di ciò che possiede, è subito individuabile, è quasi impossibile riconoscere l'orgoglio in atteggiamenti religiosi quali la preghiera, il servizio, l'abnegazione di sé, l'altruismo. Non dimentichiamo che le parole più pesanti Gesù le ha rivolte a dei religiosi, a persone che apparentemente erano la migliori della società. Questo dato di fatto dovrebbe mettere allerta soprattutto coloro che professano di credere in Cristo, coloro che hanno una vita religiosa intensa. Se crediamo che l'orgoglio è spesso in odore e in colore, dovremmo tutti guardarci non tanto dai peccati grossolani che sono evidenti e rifiutati, ma dai moventi e dalle ambizioni ingiuste che abbiamo. E, molto triste, anche se sempre un miracolo e una benedizione, ascoltare delle testimonianze di figli di Dio che alla fine della loro vita confessano di aver vissuto all'insegna dell'orgoglio spirituale e della presunzione, anche se la confessione di peccato è sempre un'opera dello Spirito Santo e quindi è da incoraggiare, a volte mi sorgono dei dubbi atroci, dubbi suscitati soprattutto quando chi confessa il peccato è sazio di aver fatto quello che voleva fare. Non parlava forse lo Spirito Santo prima della confessione di peccato? Perché solo ora confessa il peccato? Perché non c'è più niente da perdere? O è un'altra forma di orgoglio sotto le spoglie dell'umiltà? O forse la confessione di peccato fa parte di quella forma religiosa alla quale si debba ubbidire? È molto difficile individuare l'orgoglio quando non si è abituati a udire la voce della persona dello Spirito Santo. Perciò mentre il laccio di volersi identificare con il mondo, di piacere agli uomini, il laccio della paura e quello di voler arricchire, una volta identificati e condannati si abbandonano, il laccio dell'orgoglio è sempre presente perché l'atto di umiltà può nascondere l'insidia del laccio della superbia. Queste riflessioni hanno lo scopo di rendere luminoso il cammino del cristiano e non creare dei pesi inutili per correre verso il premio che lo attende. Lo scopo del credente non è quello di avere una fobia verso i lacci, cioè verso tutto ciò che può impedirci di servire Dio, ma piuttosto, come leggiamo nella lettera agli Ebrei, egli è chiamato a deporre ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno attirandoci e correre con perseveranza la gara che gli è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio, Ebrei 12, 1 a 2. Ottobre 1980. Dicembre 2004. Ellero.